Vendo tutto di Matteo Caccia. Il mio divano pesa 40 kg, il televisore 15, la Vespa un quintale. La mia collezione di topolini invece di chili ne pesa 17, i miei sci 2 e gli scarponi 3. Ma a me non interessa più, perché ho deciso di alleggerirmi di tutto. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato. Dopo 4 anni insieme mi ha lasciato. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Questa volta però io ho deciso. Mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita. Io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela. Oggi vendo uno spremiagrumi. Sono le 16:07 minuti, questa Radio 24, io sono Matteo Caccia, buongiorno a tutti, perché qui si parla degli oggetti, dei miei oggetti, però un po' anche dei vostri, quindi si parla delle storie dei miei oggetti e soprattutto anche del peso, perché come vi ho detto ho scoperto che il mio divano pesa 40 kg e sinceramente non vedo l'ora di alleggerirmene. È da poco finita l'asta su eBay per uno dei miei oggetti che vendevo 10 giorni fa, perché durano 10 giorni le aste, e ho venduto anche la mia videocamera digitale con DVD, quindi aspetto che mi contatti chi se l'è comprata in modo che spediamo pure quella e Alecco la lista dei miei desideri che comincia ad avverarsi tutta. Visto che appunto i miei oggetti cominciano ad essere venduti, gli oggetti cominciano anche ad arrivare a destinazione. È successo tra i primi oggetti, non so se vi ricordavate, se ascoltavate già dalle prime puntate, ho venduto una penna stilografica, era una penna, devo dire, bellissima per quanto io non l'abbia mai usata, e all'epoca ne parlavo così. Anche se non possediamo una penna così, anche se non ce la possiamo permettere, anche se la vendiamo, quella penna, col suo valore, la sua bellezza, non smetterà di ricordarci quanto le cose belle possono essere inutili e quanto l'inutilità, a modo suo, possa essere un valore. Per quanto possa essere un valore anche l'inutilità, io quella penna l'ho venduta, quella penna è arrivata al suo nuovo proprietario e il nuovo proprietario è al telefono con me. Pronto Emanuele? Ciao Matteo. Ciao, buongiorno e benvenuto. Sei ufficialmente il primo acquirente dei miei oggetti in diretta insieme a me. Come va? Benissimo. Quando ti è arrivata? Prima nevicava pupazzi, adesso no, si sta bene. Tu dove stai, Emanuele, esattamente? Io sono vicino a Lecco. Sei vicino a Lecco? Di origine sono di Torino. Infatti, perché tu mi raccontavi ieri, quando ci siamo sentiti per la prima volta, che tu di fatto da poco tempo hai praticamente cambiato vita. Sì, da pochissimo tempo. Io ho vissuto a Torino 36 anni, poi una serie di situazioni mi ha portato a stravolgere la mia vita. E quindi, prima cosa, non potevo che comprare la tua penna. Ok. E poi dopo, niente, un cambio epocale. Per me è bello, però. Esattamente, da il cambio, mi raccontavi che il cambio è arrivato perché tu e tuo fratello gestivate un'azienda di famiglia, sì, vi è arrivata un'offerta. Dopo l'abbiamo venduta, dopodiché un anno sabbatico ci è servito per ripartire. E quindi abbiamo detto, ricominciamo. Senti, ma ecco, ad esempio, a proposito del cambio, no? Visto che oggi vorrei concentrarmi in particolar modo su quella cosa lì, no? Il fatto di cambiare vita, non per forza stravolgerla, vendere tutto, oppure andarsene a vivere in Sudafrica. Però come te è stato un cambio radicale? Banalmente hai cambiato lavoro, banalmente hai cambiato luogo in cui vivevi, e banalmente adesso c'hai una figlia, c'hai una moglie, sei, mi sembra, una persona estremamente serena. Cioè, com'è che accade? Accade che un giorno ti svegli e decidi che cambi tutto, oppure è una cosa graduale quella che ti è successa? Dipende, dipende. Quando ti accorgi che devi cambiare, ti rendi conto che non è improvvisa, ma l'hai valutata. Okay. Hai sempre desiderato, ci sei arrivato piano piano. Però sul momento è una cosa improvvisa. Senti, quindi mi dicevi, tu gestivi un'azienda insieme a tuo fratello che si occupava di macchine per il caffè d'ufficio. Automatici. Perfetto. Poi è arrivata un'offerta. L'avete sì, venduta? E abbiamo ceduto. E adesso esattamente cosa fai? Da Torino sei andato a vivere a Lecco, giusto? Da Torino sono andato vicino a Lecco, vicino ai genitori di mia moglie. Mi sono trasferito lì, cambiato completamente. Di cosa ti occupi adesso, Emanuele, più o meno? Adesso, guarda, con mio fratello stiamo per aprire la seconda agenzia immobiliare di un marchio famoso. Ma quindi, scusami, è cambiato proprio la tua quotidianità? Nel senso che prima tipo andavi in ufficio tutti i giorni, oppure... Completamente, sì, 12 ore in ufficio, invece adesso mi alzo, vado davanti al mio computer, anche perché sto aprendo con mio cognato un sito di e-commerce per accessori di moto. Rimane tutto in famiglia, col tutto fratello famiglia, una cosa, sì, col cognato l'altra. Okay. E quindi, insomma, ti gestisci il tempo in maniera diversa? Indicativamente sì, ho più tempo per la mia famiglia, dedico più tempo al lavoro. E sei contento? In definitiva sei contento di questo cambiamento? Molto. Senti, invece, prima di salutarti, raccontami della mia penna, perché tu mi avevi scritto che la volevi perché volevi scrivere qualcosa con questa penna, cosa, esatto, che io non avevo mai fatto. Invece. Esatto. Di cosa io si tratta? Adesso devo riscrivere la mia vita, perché comunque è cambiato tutto. Pensavo fosse un percorso già scritto, e invece è tutto di nuovo da scrivere. Quanti anni hai detto che hai, Emanuele? Io ho 36, quasi 37. Perfetto, guarda, io credo che quell'oggetto non potesse arrivare a persona migliore che non a te. Mi piacerebbe un giorno magari fare una bella reunion di quelli, tutti quelli che si sono prese le mie cose, e magari un giorno riusciremo anche a incontrarci di persona, Emanuele. Perché no, io ci sono. Per il momento ti ringrazio e ti faccio tanto in bocca al lupo. Grazie mille. Ciao, buona giornata, ciao. 800240024. Oggi voglio rimanere sulla stessa onda di Emanuele e mi piacerebbe sentire solo ed esclusivamente persone che abbiano voglia di chiamarmi e di raccontarmi del cambiamento che è da poco avvenuto nella loro vita. Non sto parlando di cose giganti, non sto parlando appunto di andare a vivere a Kinshasa, nel Congo belga o quello che è. Semplicemente cose che per voi sono piccole ma sono state grandi, oppure anche evidentemente se avete cambiato lavoro, se avete cambiato casa, se avete cambiato luogo in cui vivete, persona con cui vivete. Mi scrivete al 349-238-6666 oppure mi chiamate, meglio ancora, all'800240024. Mi piacerebbe avere storie di persone che sono felici di aver fatto un cambiamento nella loro vita, che l'hanno meditato oppure no, che l'hanno preso al volo oppure no. 800240024. Torniamo alle storie dei miei oggetti, perché oggi è il momento dello Spremiagrumi. Lo Spremiagrumi. Spremiagrumi marca Braun, colore bianco, contenitore trasparente dotato di misurino e di modulatore del filtraggio. Capienza 350 ml, motore a doppia direzionalità per una migliore spremitura, cavo elettrico avvolgibile. Perfetto per svegliare lo stomaco e assumere la vitamina C senza slogarsi il polso. Valore commerciale 20 euro, base d'asta avendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Questo spremiagrumi si chiama Antonio. Non l'ho comprato. L'ho ereditato da un coinquilino con cui ho condiviso un appartamento anni fa e lui gli aveva dato questo nome, Antonio. Effettivamente a guardarlo non credo che avrei mai comprato uno spremiagrumi come questo. Cioè, anzi, a pensarci bene, io non comprerei mai uno spremiagrumi in genere. Cioè, non so com'è, però ci sono degli oggetti che non mi passerebbe mai per la testa di acquistare. Cioè, ci sono, sono lì, ci sono sempre stati e forse se non ci fossero potrei farne tranquillamente a meno. Tipo, che so, il calzascarpe, ad esempio, o le mollette per i panni. Cioè, non riesco proprio ad immaginarmi di entrare in un negozio e chiedere: scusi, mi dà 10 mollette per i panni? Ah, mi raccomando, di quelle che stringono bene. Poi, tra l'altro, dove si comprano le mollette per i panni? Si chiamava Aram, il padrone di questo spremiagrumi. Aveva 25 anni, era di origine iraniana, era piccolo e faceva l'attore. Diceva che questo era il suo oggetto preferito. Diceva che in casa sua tutti avevano un oggetto preferito. Quello di sua mamma era un vaso di ceramica. Quello di suo padre un trapano, mi pare, o un avvitatore elettrico. Lui lo teneva sempre chiuso nella sua confezione, la scatola che ti danno quando lo compri. Era strano perché camera sua era un delirio. C'era tanto di quel casino che sembrava una discarica. Eppure tutte le mattine Aram tirava fuori il suo spremiagrumi dalla scatola, lo usava, lo lavava, lo asciugava e ce lo rinfilava. Guardate, non sto raccontando per esaltare la cura con cui è stato trattato questo oggetto, È solo perché a volte le ossessioni sono veramente incomprensibili. Dicono che le ossessioni siano un antidoto. Non so esattamente a che cosa, però un antidoto. Una sorta di cura della ripetizione. Come se ripetere all'infinito gli stessi gesti, nella stessa sequenza, possa dare un qualche tipo di ordine al mondo. C'è chi lucida la macchina tutti i giorni, chi pulisce il pavimento e usa le pattine. Niente, Aram accudiva Antonio, cioè il suo spremiagrumi, come fosse un canarino esotico. La cosa più strana però non era il fatto che ci tenesse così tanto, quanto il tipo di spremute che ci faceva. Lui odiava le arance e quindi si faceva solo spremute di pompelmi e di limoni. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Per dirla tutti, questo spremiagrumi ha anche un piccolo difetto. Poi più che altro è una peculiarità, ed è che non basta schiacciarci sopra l'arancia per metterlo in funzione. Bisogna anche fare una piccola torsione con il polso per innescare la partenza dello spremitore elettrico. Lo ammetto, ce n'è sicuramente di meglio, Ci sono spremiagrumi più belli, più potenti, ci sono quelli che fanno pure le centrifughe, le vellutate, i frullati, le mousse, però lui è il mio spremiagrumi. E anche se non sarà facile liberarsene, ho deciso di vendere tutto. Ho deciso di liberarmi degli oggetti che mi ricordano la mia vita di prima. Sì, voglio volontariamente perdere dei pezzi. Voglio farlo di proposito, eh? È l'unico modo per ricominciare da capo. Un po' più leggero. Ecco perché mi libero anche di questo spremiagrumi. Lo spremiagrumi con cui una mattina di 8 anni fa ho preparato una spremuta per Maurizio Cattelan. L'artista. Quello del cavallo appeso al soffitto e di Wojtyla schiacciato da un asteroide. Mi spiego. Mauro, che era uno dei coinquilini di quella casa, Mauro lavorava per una galleria d'arte qui a Milano. Cattelan aveva presenziato l'apertura di una sua mostra e dopo una serata alcolica insieme a Mauro aveva dormito sul divano di casa nostra. Era un sabato mattina, io mi ero svegliato tardi. In cucina, quando ci sono arrivato, mi sono trovato sto tizio che non sapevo chi fosse, che armeggiava con lo spremiagrumi, però non riusciva a farlo partire. Io gli ho detto che doveva torcere appena il polso per dargli un invito, ma niente, non ce la faceva. Gli ho detto di lasciarmi fare, lui si è seduto, io ho preparato la spremuta e ci siamo presentati. Mentre gliela versavo nel bicchiere, io ho bofonchiato qualcosa a proposito del fatto che lo spremiagrumi aveva riconosciuto la mia mano. E lui invece, guardandomi, mi ha detto: no, non credo che sia così, credo che sia il contrario. Cioè, credo che sei tu che conosci le sue abitudini. Credo che gli oggetti abbiano una loro personalità, una specie di intimità che è indipendente da noi. Poi abbiamo avuto la spremuta e ci siamo messi a parlare di donne e di calcio. Qualche mese dopo ho visto sul giornale una foto in cui lui riceveva una laurea honoris causa con un braccio ingessato. E lì ho capito chi era. Ecco perché tengo a questo spremiagrumi. Non perché ci ho fatto una spremuta per un tizio famoso, ma perché è stata la prima volta che ho capito che gli oggetti hanno una loro storia, una loro biografia. Nonostante tutto però, nonostante Cattelan e quella mattina di 8 anni fa, io lo spremiagrumi lo vendo. Il valore sono attorno ai 20 euro, la base d'asta 99 centesimi. Se avete cambiato qualcosa nella vostra vita e volete raccontarmelo, 80024 0024. Ho lasciato tutto a Milano per Ciampino solo per amore. I cambiamenti fanno sempre tanto bene, Manuela. Ero single, precario e non possedevo nulla se non la mia laurea. Ora sono un professionista, ho comprato una casa e diventerò padre tra 5 mesi. Un po' stressato, ma sono felice. Invece Andrea mi scrive: evidentemente c'è qualcuno che li stende per te i panni, visto che non sai comprare le mollette. No, semplicemente li stendo senza le mollette. 80024 0024. C'è gente che addirittura sta per cambiare vita e lo sta per fare domani. È il caso di Andrea da Torino. Pronto? Sì, pronto, ciao. Ciao Andrea, come va? Bene, grazie. Cosa stai per fare? Sto per cambiare vita, come hai detto. Domani mi sposterò a vivere con la fidanzata Lione. Sono di Torino, ho perso da poco il lavoro, anch'io sono nelle condizioni di molti giovani in questo periodo. Quanti anni hai, Andrea? Ho 29 anni. Ok. E da domani appunto sarò a Lione, sarà un passaggio diciamo un po' graduale per il primo periodo, in quanto io essendo di Torino in 3 ore e mezza, 4 di macchina posso fare avanti e indietro. Certo. Diciamo per un trasloco un po' più rilassato, per così dire. Sai già cosa farai là esattamente oppure? Beh, sicuramente inizierò con dei corsi di francese molto intensivi, perché questa mi sembra una buona idea. Parlo francese, ma non perfettamente. Cos'è che sai dire in francese? Tipo, bonjour, c'est moi. Ok. Sì, no, beh, la base qualcosa proprio. Qualcosa in più in realtà, però adesso diciamo non mi sembra il caso. Okay. Senti, di iniziare gli ascoltatori. Più o meno però che idea hai? Cioè cosa vorresti provare a fare a Lione? Beh, io ho conseguito la laurea in architettura nel 2008, stavo già lavorando come architetto a Torino, poi il lavoro è stato perso, ho già preparato il curriculum in francese in svariati esemplari da andare a consegnare direttamente negli studi. Ottimo. In città, e quindi sei pronto insomma, Andrea? Sono pronto, sì, diciamo che è stato un passaggio che da un po' su cui meditavo, ho sentito l'ascoltatore di prima e quindi ho preso la palla al balzo, ho chiamato anch'io, sono d'accordo con lui, è una decisione che in realtà quando arriva è già stata meditata da tempo. Guarda, ho letto da qualche parte che in realtà le decisioni importanti si prendono nei primi 3 secondi da che ci si presenta il quesito davanti, quindi mi sa che l'avevi già presa da un po'. Andrea, io ti faccio un sacco di in bocca al lupo, fai un buon viaggio e buona fortuna per tutto. Crepi il lupo. Ciao, grazie, buona giornata. Grazie. Andiamo a Fabrizio da Genova. Pronto Fabrizio? Pronto, ciao. Ciao, come va? Bene, bene, bene. Tu quando è che hai cambiato o hai fatto un cambiamento particolare? Beh, io l'ultimo, un anno fa, in pratica, io ho vissuto negli Stati Uniti, a New York, negli ultimi 6 anni della mia vita, mi sono sposato, ho avuto figli, erano 10 anni che giravo il mondo, Londra. Che cosa fai, Fabrizio, nella vita? Io facevo lo chef, lavoravo per una catena alberghiera, che si chiama Intercontinental, sì. E sono stato con loro per tanti anni, poi ho proprio deciso di cambiare vita, sono ritornato a Genova, dove sono cresciuto, con mia moglie dagli Stati Uniti e mio figlio, e ho cambiato lavoro, faccio l'agente di commercio per una... Ah, hai proprio cambiato radicalmente lavoro, cioè quindi non prepari più da mangiare? No, vendo da mangiare, ah, okay. Vendo prodotti per chi prepara da mangiare, diciamo per cuochi, quindi sono rimasto nell'ambito però con una vita diversa. Pentimenti o robe del genere? No, perché ho viaggiato il mondo per 10 anni, mi sono divertito, ho visto un sacco di posti, non ne potevo più però. Perfetto. Avevo bisogno di fare un salto, di avere altre cose da cui pensare, altro tempo, tempo per fare altre cose. E l'hai trovato? L'ho trovato. Dimmi una cosa che fai nel tempo che hai in più. Ma sicuramente mi godo i miei figli, vado a fare dei fine settimana in giro, non ho mai avuto la possibilità di fare sabati e domenica o cose col lavoro che avevo, faccio gite, mi diverto, mi godo l'Italia che non ho visto perché sono stato più all'estero che in Italia. Fabrizio, guarda, già mi pareva che la prima motivazione fosse perfetta, ti godi un po' più i tuoi figli. Ti ringrazio, okay, buona fortuna per tutto. Ciao, grazie, a presto. Ciao, andiamo a Bergamo da Marco, pronto? Pronto, buongiorno. Ciao Marco, buongiorno, come va? Bene, adesso bene. Perché prima invece non tanto? Ho avuto un paio di fasi difficili, nel senso che io ho fatto per 5-6 anni l'insegnante e il vice direttore di una scuola. Uh-huh. Peraltro insegnare mi piaceva tantissimo, il lavoro di direzione molto meno. Solo che non avrei mai avuto il coraggio di cambiare se non mi fosse successo di finire 6 mesi in ospedale. Uh-huh. E di fare altri 6 mesi di riabilitazione. Al ritorno il lavoro non c'era più, allora grazie a un amico che cercava un socio ho cambiato completamente stile di vita, orari, tutto, e adesso francamente mi chiedo perché non l'ho fatto prima. Adesso cosa fai adesso, Marco? Adesso lavoro per un'assicurazione con un socio, con questo mio socio, ma è proprio la mentalità che è cambiata, l'orario, il modo di affrontare la vita, completamente diverso. L'unica cosa che ho tenuto fissa, onestamente, è mia moglie. Beh, che mi sembra cambiato. Che non mi sembra poco. Quindi possiamo dire che, nonostante il cambiamento sia, diciamo, stato abbastanza obbligato, mi sembra di capire, sì. è stato ma positivo. Ma francamente, al momento magari mi sono arrabbiato, ho detto: ma cosa mi è capitato? Io dico che se non mi fosse capitata questa avventura, non sarei ancora nel mio vecchio lavoro a lamentarmi, ma non avrei mai avuto il coraggio di cambiare. Bene, Marco, ti ringrazio molto. Buona giornata e in bocca al lupo. Altrettanto. Ciao, andiamo da Greta a Roma. Pronto? Ciao. Ciao Greta, come stai? Buona giornata, bene, grazie. Senti, intanto ti volevo fare i complimenti perché scrivi benissimo. No, Greta, non mi dire così che poi faccio fatica ad andare avanti. No, è vero, siccome io mi occupo, io scrivo, quindi tu scrivi benissimo. Grazie, grazie mille. Greta, invece tu stai per... Allora, io vorrei cambiare la mia vita, nel senso ci sto pensando da tempo. E prima o poi lo farò. Cosa partiamo dall'inizio. Che cosa fai? Scrivo per la televisione, diciamo. Ah, ma ci puoi dire tipo che cosa? No, dai, non diciamo programmi. Dai, no, non diciamo i programmi, però è una roba. È prettamente per la Rai, diciamo. Okay, ma sono cose tipo da prima serata, cose anche per tutta prima la famiglia. Serata, se no contenitori. Ok, perfetto. Okay. E cosa vorresti andare a fare, Greta? Non lo so, è quello il problema. Volevo qualche consiglio da te. Da me? Magari. Guarda, un consiglio te lo do. Tu vendi tutto. Guarda, anche quello non è male. Fai una lista dei tuoi desideri, me li mandi e ci sentiamo la prossima volta. Magari. Guarda, mi piacerebbe occuparmi di bambini per adesso. Poi devo ancora studiare bene come. Perfetto. Guarda, Greta, io sono qua. La mail è vendotutto@radio24.it. Mi mandi la lista e ci risentiamo la prossima volta. Complimenti. Grazie mille. Ciao, ciao, buona giornata. È finita anche oggi, sono le 16:26, quindi ringrazio tutti quelli che hanno chiamato, ringrazio tutti quelli che hanno cambiato vita e non hanno chiamato, ma soprattutto ringrazio Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Paolino Corleoni. Per vedere il mio Spremi Agrumi andate sul sito, come al solito, radio24.it, se volete risentire la sua storia, invece lì trovate il podcast, sempre radio24.it. Quella di domani è una puntata particolare, perché domani si avvicina un giorno particolare, che è il 14 febbraio. Quindi è arrivato il momento di liberarsi del primo regalo della mia ex, che è un semplice e banalissimo, potrebbe sembrare, orologio da polso. Se anche voi volete cambiare, iniziate dal liberarvi delle vostre cose, perché alla fine pure uno spremi agrumi è semplicemente uno spremi agrumi. Love, love, love, wherever you